Ukiona hakitoi harufu usigonge, midundo gonga piga madufu ni udondoke. Wale wakali ukipita zali, ukishinda gari wamechoka tena wana fasali. Hey, we usi wa magamba ila ndani we ufe, timu wa vumbi wanapiga chafi ache. International, buke mashimo, wecha baba kora watoto wote machino. Watu soma kama bari, mongozo serikali, maji kupa maji kuja, maji ya bahari. Chere ya pina, natamba jina na eka fina. Vina, vina, tunapanda mbegu kuza mizizi subiri shina, shina, shina, shina. Adabu na heshima, busara na hekima, mapepe wanaruka ruka tumbiri na kima. Zunguka sayari toa neno, misemo, bip tunakata pande za funa na meno. Ami, soja, wengine wanangoja, wanangu wanajua tuko pamoja, go! Che, che, che, che, apina, che, che, che, apina. Tunazungusha kete na piga bao, mbaka mwisho wanajua ibu bao. Che, che, che, che, che, apina, che, che, che, apina. Tunazungusha kete na piga bao, mbaka mwisho wanajua ibu bao. Mademo wapendi sura, wanapenda machine za ATM na hakuna kingine. Sisi na mwaga mwaga pesa, wamelala wenye swaga tunakesha. Nimetuma SMS hajajibu chochote, yuko bize na jukes mara chibu dangote. Amekuwa matawi ya juu, matawi ya twiga na wala sio matawi ya mbuzi. Zi, zi, zi, zi na koroma, kama kushoboka mwiko na koroga. Wamekuja na bicho na korola, wamebeba pisto ni wakora. Niko simple siko bora, migo migo nipo kona, nikichora mingo za kukaba shingo na kupora. Wametaka kiki na wapa snare, nikisiharibiki ndo maana sinaga spare. Che che che che apina, che che che apina. Tunazungusha kete na piga bao, mpaka mwisho wanajua ibu kwao. Che che che che che apina, che che che apina. Tunazungusha kete na piga bao, mpaka mwisho wanajua ibu kwao. Na huu ndo ule muda wa mikula. Marapa ni mapimbi sana, na kamwa wawezi wakauza na si sura. Siwezi kumpa mtalii kura, tujui kama kachuchumaa ama kakada, ama kweli msanii chura. Wengine wanauliza ni nani, nawaambia ni mshikaji flani vi ambaye nipo ghetto tu squeezing na vimani. Kuhusu kunishinda si dhani, nikiingia booth naweza sema nazama vitani. Mitani ni imani za gizani, ni gani papa unajikuta hauko dimbani. Hiyo iko vipi, how to fix it bro? Naweza nkachana hivi na ikawa fiti, so shout out kwa JR na Invisible. She depends wa Nikki, peace yo. Che che che che che apina, che che che apina. Tunazungusha kete na piga bao, mbaka mwisho wanajua ibu kwao. Che che che che che apina, che che che apina. Tunazungusha kete na piga bao, mbaka mwisho wanajua ibu kwao.